Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Antonio Ogliari. Il valore della sostenibilità nei prodotti Silk per l'igiene e la cura di tutta la famiglia. Curiamo la filiera di approvvigionamento in maniera assolutamente responsabile. Avremo dei canali di approvvigionamento anche molto più facili ed anche molto più convenienti economicamente parlando. Però anziché ricorrere a queste, tra virgolette, scorciatoie, da 44 anni, nonostante tutte le difficoltà del settore e dell'azienda specifica, noi imperterriti continuiamo a mantenere quel tipo di condotta, anche se potremmo importare delle economie di scala, piuttosto che degli sconti sull'acquisto della materia prima, anche importanti, però verremmo meno a questo principio. Per cui l'atteggiamento e la condotta etica sociale è questa, quella di comunque mantenere questo principio fin dal 1972, ancora oggi. In tempi di crisi, forse l'incentivo a ricorrere anche a delle scorciatoie per far quadrare i conti, tra virgolette, è ancora superiore. E nonostante questo, non abbiamo fatto ricorso a delle scorciatoie facili, ma siamo rimasti là da dove è partita, insomma, la nostra storia. Antonio Ogliari, socio della seconda generazione e amministratore delegato, racconta così lo spirito e la responsabilità sociale dell'azienda Silk, che opera da decenni nel settore dei prodotti assorbenti e dell'igiene alla persona. Silk si prende cura dell'igiene di tutta la famiglia e la cura si estende anche alle materie prime utilizzate per i prodotti, agli alberi, alla cellulosa. Ci appoggiamo a dei fornitori che garantiscono a Silk l'origine di questa cellulosa e quindi di questi alberi da foreste di proprietà, il che vuol dire che non andiamo a prendere materia prima in zone altamente sensibili, in zone non controllate, in zone sotto coni d'ombra. I nostri alberi sono di provenienza nordamericana, da foreste di proprietà, monitorate da organismi americani che garantiscono, oltre che l'origine, un programma specifico di ripiantumazione. E poi una cosa importante, la cellulosa, come tutti sanno, abbiamo tutto avuto a che fare con un pannolino o con un assorbente o con, insomma, con un prodotto assorbente, è bianca. No? In realtà gli alberi e il legno non è bianco e quindi c'è un processo di sbiancamento di questa cellulosa che può sembrare banale, ma in realtà cela dei rischi anche molto importanti. L'azienda si basa fin dagli albori sui suoi quattro pilastri: ambientale, con riduzione di scarti e di consumi energetici, sociale, culturale e dell'innovazione. Tutto nasce da un intreccio tra famiglie, come un intreccio di rami dello stesso albero. Silk S.p.A. nasce infatti nel 1972 dall'intuizione di quattro imprenditori privati, impegnati in settori del tutto diversi, per dar vita a una realtà produttiva nuova e rivoluzionaria sul territorio, proponendosi sul mercato come produttori di ausili assorbenti monouso per conto delle più importanti aziende italiane ed europee. Un sodalizio vincente, fondato sull'amicizia, sulla stima e sul rispetto reciproco dei quattro pionieri. Valori respirati prima in casa e successivamente in azienda, anche dalla seconda generazione. I discendenti dei fondatori sono oggi i timonieri dell'azienda, che uniti nel segno della realizzazione del sogno dei loro genitori, insieme portano avanti l'impresa in un trend di costante crescita. Antonio Ogliari racconta l'origine dell'idea imprenditoriale, che si è sovrapposta a una prima attività imprenditoriale. Queste famiglie avevano interessi pregressi nel campo dell'edilizia. E quindi in realtà queste quattro famiglie ancora oggi sono proprietarie di una serie di aziende, oggi soprattutto immobiliari più che di costruzioni. La cosa curiosa è come dall'edilizia, che è, voglio dire, un settore abbastanza comune, soprattutto noi siamo della provincia di Cremona e quindi è un'attività abbastanza diffusa, l'idea di fare dei pannolini come nasce. Qual è la lampadina che si è accesa in testa a questi nostri papà? Intercettando quello che sarebbe stato poi un trend importante, e cioè il trend dell'incontinenza. Così come noi abbiamo avuto il boom delle nascite negli anni 50 e 60, paradossalmente i trend demografici li conosciamo tutti, negli ultimi decenni abbiamo avuto più che un boom delle nascite, un boom dei nonni. Un'azienda familiare italiana con investimenti di oltre 40 milioni di euro negli ultimi 10 anni. 24 linee produttive situate nello stabilimento di Trescore Cremasco, che si estende su una superficie complessiva di 60.000 metri quadrati. Nuove linee di prodotto pronte per essere messe alla prova. Un'organizzazione commerciale che conta 5 divisioni: trade, ospedaliera, farmacia, nursing ed export. Ogni famiglia è importante nell'organizzazione aziendale di Silk, come insegnano i ricordi. Mio padre, insieme agli altri soci tutti naturalmente, che finito quello che era il proprio lavoro, era nel campo dell'edilizia e quindi il muratore, quindi dopo le 5:30 del pomeriggio si andava a caricare i camion e quindi si andava ad aiutare nella neonata azienda Silk a caricare i camion, ma a titolo gratuito oltre che con entusiasmo. Quindi dopo 8 ore di cantiere edile, i soci che si prestavano tutti dal primo all'ultimo veramente insieme, all'epoca 4 ragazzi, perché all'epoca erano ragazzi anche loro. Una tipica azienda italiana di famiglia, che produce al 100% in Italia e che ha iniziato con la lavorazione della cellulosa per arrivare a fornire prodotti sanitari a gruppi quali Procter & Gamble, Arzana e Angelini, fino alle salviette per bambini Trudy Baby Care. Silk è l'acronimo di Società Italiana Lavorazione Cellulosa. E così si spiega il suo nome. Il nome Silk, che tra l'altro ha un logo arabeggiante che torna utile adesso, perché in questa fase di internazionalizzazione dell'azienda, viaggiando nei paesi arabi, tutti mi chiedono perché abbiamo chiamato l'azienda Ali, perché pare che il logo Silk sia Ali in arabo. E io dico sempre, perché già fin dall'inizio noi pensavamo all'internazionalizzazione, naturalmente scherzo. Il logo nasce proprio perché la società negli anni 70 si occupava della lavorazione della cellulosa. Intendo dire che salviettine, cosmetici, quindi il mondo Trudy, il mondo Clinians, è venuto solo dal 2003 in qua, mentre nel 72 l'attività prevalente era la pura e semplice lavorazione della cellulosa. Pertanto Società Italiana Lavorazione Cellulosa, acronimo SILC, suona bene, suonava bene ed è stato semplicemente adottato per quello. Il fatturato è raddoppiato negli ultimi 8 anni, attualmente è circa 90 milioni di euro e Silk viaggia per il mondo, anche perché la sua produzione è legata al tasso di natalità dei diversi paesi e i trend demografici. C'è una prima fase che è storica e che riguarda relazioni consolidate con quelli che sono i paesi comunitari, quindi Germania, Francia, Inghilterra, relazioni che vanno avanti da tantissimi anni perché siamo nella comunità europea. E quindi in realtà quando io parlo di internazionalizzazione non mi riferisco nemmeno più a questi paesi, e anche loro subiscono bene o male il trend demografico che subisce l'Italia, chi più chi meno. Se io voglio cercare un mercato che cresce di prodotti per bambini, devo andare dove ci sono i bambini. I bambini sono in Asia e in Africa soprattutto. I trend demografici sono abbastanza asfittici per quanto riguarda la natalità, quindi i bambini in Italia. È vero anche, di contro, che la porzione di persone anziane aumenta molto. Noi facciamo prodotti per incontinenza e quindi anche lì è un mercato che non ha certo, io ho detto tra parentesi purtroppo, problemi di crescita. Le radici di Silk, secondo Antonio Ogliari, stanno tutte in una frase in dialetto cremasco. Guardi, c'è un detto che in dialetto che mi viene in mente, che diceva sempre il precedente presidente Arcelloni, che era una persona di un pragmatismo eccezionale, e quindi poca teoria e tante cose concrete, tangibili, eccetera. E di fronte alle grandi difficoltà che comunque si sono avute nel corso di questi 44 anni, il suo pragmatismo lo portava a dire che un po' da che, un po' da là faremo. Come dire, non ci preoccupiamo, siamo persone serie, siamo persone che lavorano e quindi di fronte a difficoltà un po' di qua, un po' di là ne veniamo fuori. In dialetto mi viene in mente un po' da che, un po' da là. Ed è la storia di una grande impresa, quella di Silk, dedicata alla cura dell'igiene di tutta la famiglia. Passiamo alla storia di una piccola impresa, Progetto Famiglia Network, per l'assistenza domiciliare di anziani, famiglie, bambini e disabili o presso le strutture ospedaliere. Servizi che potrebbero anche essere offerti ai propri dipendenti e familiari dalle aziende come welfare aziendale. Imprese che aiutano, come quella del 31enne Francesco Lorenti, che ci ha scritto un'email appunto per presentare il suo Progetto Famiglia Network, nato 6 anni anni fa nel suo paese a Fidenza si è trasformato in una sorta di franchising fino ad avere oltre 40 filiali in Italia. Era giugno del 2010, lavoravo in quel periodo presso una scuola media della mia zona. La scuola media è stato il luogo in cui ha visto dei bisogni e non solo un mercato, ed a quel momento ha pensato a un'opportunità non solo di impresa ma anche un'opportunità di aiuto. Che cosa ha messo in piedi? Una piccola realtà di servizi socio-assistenziali rivolto non solo agli anziani e agli ammalati nella sua interezza, ma anche legata alla prima infanzia, ai bambini e tutti coloro che necessitano di assistenza nell'immediato. Tutti i servizi che purtroppo il pubblico non era più in grado di offrire anche solo in parte, e quindi mi sono impegnato a far fronte a soddisfare questi bisogni. Quali ventaglio offrite? Parliamo di igiene personale, alzata, messa a letto, delle veglie notturne nelle strutture pubbliche o private, case famiglie e via dicendo, comunque sempre nella sfera familiare e domiciliare. Vi rivolgete anche a delle aziende, perché adesso con il welfare sarebbe molto utile che le aziende potessero appoggiarsi a delle imprese di servizi per fornire servizi ai propri dipendenti come welfare aziendale, vero? Le tariffe variano dai 9 ai 12 euro per ogni ora di servizio.